16. Minestra di semolino composta seconda. La minestra di semolino, fatta nella seguente maniera, mi piace più dell'antecedente, ma è questione di gusto. Per ogni uovo, semolino grammi 30, parmigiano grattato grammi 20, burro grammi 20, sale una presa, odore di noce moscata. Il burro scioglietelo al fuoco e, tolto via dal fuoco, versateci sopra il semolino e il parmigiano, sciogliendo bene il composto con le uova. Poi versatelo in una cazzaruola con un foglio imburrato sotto per assodarlo fra due fuochi, badando che non rosoli. Sformato e ghiaccio che sia, tagliatelo a piccoli dadi o in altro modo, facendolo bollire nel brodo per 10 minuti. 3 uova basteranno per 5 persone.